tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti a una nuova puntata del notiziario anticlericale che diciamo si presenta in maniera veramente trionfale. Arrestata Lady Vaticano, ha intascato ben 500.000 euro destinati a liberare ostaggi. Leggiamo dalla Repubblica del 14 ottobre. E usava società fantasma con sede a Lubiana. E era un'amica del cardinal Becciu e millantava amicizie in ambasciate e servizi di sicurezza che in realtà nessuno conosceva, ovviamente tutto con la complicità del cardinale, che è stato costretto alle dimissioni. È molto maligno il settimanale Panorama, che in copertina mette il povero Papa Francesco col malefico cardinal Becciu e la diabolica signora Cecilia Marogna. La vera battaglia dietro le vicende del cardinal Becciu e della sua referente finanziaria si gioca sul tesoro della Chiesa. Ricordiamo che tutti i lingotti che sono lì al bastione che, sopra cui c'è lo IOR, la banca del Vaticano, nessuno l'ha mai fotografato. Sempre dalla Repubblica del 15 ottobre, Lady Vaticano, i tempi si allungano, niente estradizione prima di un mese, che dovrà essere approvata dal ministro della giustizia italiano. E qui si racconta questa figura malefica, questa signora diabolica, nomi finti, qualifiche improbabili e amici eccellenti. E dal 2005 si sapeva che questa ragazza, non si sa bene con quali meriti, lavorava per il Vaticano e il branco di affaristi che da sempre lo popola. La enciclica del Papa Francesco Fratelli Tutti ha fatto arrabbiare moltissimo i clerico-fascisti che sono incazzati con Bergoglio. Sarebbe nemica dell'Occidente cristiano. E altri misfatti clericali minori dalla provincia, da Marsala, fari accesi per la festa di San Giuseppe, 5 indagati per furto di elettricità. Nei guai anche l'ex presidente del Consiglio Comunale, tutto per favorire la festa a spese della cittadinanza. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo alle vittorie anticlericali e l'AONE, la famosa pillola senza filtri per i teenagers, le associazioni clericali incazzatissime. Ricordiamo poi gli scandali sessuali, la Chiesa Cattolica Giapponese citata in giudizio per danni in presunti abusi sessuali, 28 settembre 2020, Tokyo. Donna intenta causa contro la Chiesa Cattolica sostenendo di essere stata stuprata dal prete. Olanda, eutanasia estesa ai bambini sotto i 12 anni. Il ministro De Jong ha motivato l'iniziativa con uno studio sulla sofferenza dei bambini. Passiamo poi ad altri misfatti sessuali. 9 ottobre 2020, cosa succede in Louisiana? Questo sacerdote malefico, diabolico, faceva addirittura sesso sull'altare della sua chiesa insieme a due donne. Ma è stato visto da una beghina della parrocchia che ha chiamato la polizia e quindi è stato arrestato. Sui preti pedofili, da cronaca vera dell'ottobre 2020, Caserta, sacerdote. Condannato a 9 anni di reclusione, Don Michele Mottola, sacerdote 61enne, arrestato per aver abusato più volte di un 12enne e i preti pedofili, nostro cavallo di battaglia. E dagli Stati Uniti a Farmington, in Don Gary Bertune, 78 anni, arrestato sempre questo mese per abusi sessuali, accusato di aver molestato sessualmente ragazzini. Abusi fra i chierichetti, il via al processo dalla prealpina del 14 ottobre. A giudizio sacerdote di Como, ex rettore del seminario. Abbiamo poi le disgrazie clericali, prete con la mascherina collassa e muore durante la messa, settembre 2020. Questo prete del Camerun, di cui c'è la foto sul web, invece di avere chissà quali benefici corporali, spirituali, è morto improvvisamente durante la messa. morte 5 suori nel Pavese, tutte le loro preghiere inutili, il virus anticlericale ha fatto strage nel loro convento. La rivista clericale Jesus ricorda il disastro della Chiesa francese. Non sono gli effetti della laicità, ma la copertura di abusi sessuali, l'episcopato conservatore e la difficoltà a parlare della vita della gente, che stanno facendo scomparire la pratica religiosa in Francia. Molto bene. Abbiamo poi, dal mio dizionario anticlericale, siamo alla C, clericalizzazione, fenomeno particolarmente accentuato nella società italiana degli ultimi decenni, con misfatti che neanche sotto Pio XII si erano verificati. Clerocrazia cattolica, struttura politico-sociale su base religiose che opprimeva l'Italia risorgimentale, da Guido Verucci l'Italia laica. Coercizione spirituale, fu esercitata dall'Inquisizione e da altre istituzioni clericali contro il libero pensiero. Vediamo cosa ha fatto la Chiesa il 17 ottobre 1551. Prete eretico pentito svela all'Inquisizione i nomi di molti antitrinitari e luterani presenti in varie città e stati italiani. 18 ottobre 2019. Arrestati due democristiani a Foggia per abusi sessuali. Abbiamo poi, dall'archivio storico della Biblioteca del Libero Pensiero di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, 1 maggio 1876, arrestato a Zara un prete infanticida che aveva ucciso e occultato il frutto di una tresca amorosa. Ricordiamoci che sono usciti anche vari libri su queste truci storiche clericali. Bene, saluti a tutti, viva il libero pensiero. Per eventuali contatti chiamate il 331-730-2874. Salutiate a tutti. Addio Lugano bella, dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cor, e partono cantando con la speranza in cor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al bar dei malfattori, eppure la nostra idea è solo idea d'amore, eppure la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, è questa la vendetta che noi vi domandiamo, è questa la vendetta che noi vi domandiamo. E tu che ci scacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Sia il tuo governo, schiavo da lui si rende, tradizioni offende, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici lucanesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Vieni su Monte Calvario anche tu.